Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, buonasera, ben ritrovate. Ben ritrovato. E questo microfono sta dando dei problemi. Ci si riprova e meno male c'è il tappetino, meno male esiste il tappetino e ci salva sempre da questi problemini infernali. Dunque, scusate davvero per questo inizio, ma inizio di cosa? Inizio di Nervature, trasmissione che come sempre ogni lunedì alle 19 vi chiacchiera di, direi, piante, botanica, giardinaggio e suggeritemi voi anche altro. E, oggi il lunedì 28 aprile 19.04 ero partita in orario, ma ora vabbè qualche secondo di delay ci sta. E, che dire, direi intanto di ricordarvi i contatti della radio, quindi Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Il nostro sito è radiowombat.net, andatelo a spulciare, c'è tutti i podcast delle trasmissioni. attive e non. C'è anche la pagina contatti, da cui trovate un sacco di informazioni utili. Per esempio, prima cosa, il pad, che è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta. E vi ricordo però anche il link è direttawombat.vado.li. E, trovate però anche altre info, la casella di posta, ecc. Altrimenti, probabilmente lo sapete già, ma ci potete ascoltare anche dalle frequenze AM alle 13:59. E allora direi quindi di lanciarsi nella puntata di oggi. A questo punto non vi metto neanche il brano introduttivo, tanto un po' di musica già c'è stata di interruzione, diciamo. E, la puntata di oggi in realtà continua quello che già abbiamo iniziato la scorsa volta e quindi l'argomento è farvi scoprire, a meno che già non li conosciate, metodi così curiosi, anche creativi, per utilizzare le piante, soprattutto con metodi casalinghi. Quindi così vi sto dando un po' di input e poi a voi la libertà e la creatività di riproporvi queste attività a casa. Allora, la scorsa volta abbiamo sentito due voci di Rosangela e di Simona. La prima che ci parlava del fatto che va a raccogliere erbe spontanee e che le usa principalmente in ambito culinario. E vabbè, non è stata enormemente a dilungarsi su ricette e cose varie, però si potrebbe fare ovviamente, la lista sarebbe infinita letteralmente. E invece la seconda voce, Simona, ci ha raccontato del suo percorso e la sua esperienza artistica, perché appunto lei si definisce giustamente una creativa, perché va ultimamente a raccattare pezzi di radici, di tronchi, e ci fa delle sculture bellissime, tra l'altro, e oltre a questo fa anche le stampe botaniche. Tutto ciò non le fa solo per se stessa, ma le piace divulgarlo, tant'è che infatti si è prestata a parlare qui in radio, e lo fa anche con i suoi allievi alla scuola. Questo era un po' il riassunto della puntata precedente, diciamo. Abbiamo sentito anche le loro due piantastorie, nel caso di Simona abbastanza particolari, quindi andatela a rispulciare se vi interessa. E oggi, quindi, continuando con questo argomento, sentiamo una terza voce e poi magari nelle puntate successive forse anche altre, vedremo cosa riesco a raccattare a giro, diciamo. E, direi che non vorrei fare grandi presentazioni e ve la sentite subito, così ci sentiamo fra un po'. Che cos'è l'acqua florida o l'acqua de flor o l'acqua de florida, ci sono vari nomi. È un'acqua definita sciamanica o quantomeno un'acqua, un preparato di varie piante, di cui c'è una ricetta originale che però non è conoscibile completamente, conosciamo soltanto una parte degli ingredienti, e questo lo fanno per evitare, cioè per mantenere l'originalità. E è un'acqua che viene utilizzata da sempre, magari non questa particolare che si trova in commercio, che è fatta poi a livello industriale, quindi perde un po' sicuramente delle proprietà. Comunque le acque di fiori sono state utilizzate da sempre, in tempi antichi, durante le cerimonie di purificazione, quindi il loro effetto principale è quello di pulire gli ambienti, pulire l'aura della persona e eliminare quindi le energie pesanti e permettere invece alle energie, diciamo, più leggere, più fresche, più vive e vivaci di entrare nell'ambiente, se nella casa, nella stanza che stai pulendo, se è quello che vuoi fare. Quindi è un'acqua che prevalentemente lavora sui livelli, sul ripulire energeticamente, quindi è una pulizia appunto dell'energia. E tutto ciò riporta, come dicevo, un riequilibrio. Praticamente come si fa in acqua florida? Dopo aver raccolto le erbe, prendo questo vasetto di marmellata vuoto e ben pulito. Anche quello magari prima di inserirci le erbe lo passo sopra il fumo della salvia bianca o del palo santo, anche che sono appunto metodi per pulire anche queste attraverso invece la fumigazione, come dicevo prima, e inserisco le piante scelte e lo ricopro completamente con alcol. L'alcol che utilizzo è l'alcol 95 gradi, è facilmente reperibile, si trova in tutti i supermercati, è quello con cui si fanno anche i liquori. E tengo questo vasetto per 28 giorni in un luogo fresco, asciutto, a riparo dalla luce, come un po' tutte le cose. E poi lo agito ogni 3 giorni più o meno, lo agito in modo che si mescoli bene, si riattivi un po' i principi attivi appunto delle piante, e poi dopo 28 giorni lo filtro e mantengo l'alcol filtrato in una boccettina, quindi la chiamo come la madre, cioè da cui poi prendo una quantità che diluisco con altrettanta acqua distillata. È importante che sia distillata perché dura di più, l'acqua normale potrebbe appunto avere, è più facile mantenerla insomma con l'acqua distillata. E poi metto l'etichetta con il nome che gli ho dato, a volte scrivo anche il nome delle piante e la data, e poi la regalo spesso, quasi sempre faccio le mie boccettine e le regalo. Comunque ce n'ho una serie a casa fatte che spruzzo nell'ambiente, oppure me lo spruzzo nelle mani principalmente, le sfrego fra di loro e piano piano me le porto vicino al viso, mi accarezzo, diciamo, tutta l'aura, tutta il mio corpo sottile con questa acqua semi-alcolica appunto, e niente, in quel momento è un momento di silenzio in cui accolgo il dono che fanno le piante, e in base appunto a quello che ho fatto, al nome che gli ho dato, a volte scelgo una, a volte scelgo un'altra. E io sono venuta a conoscenza di questa acqua perché partecipo da tempo a cerimonie legate soprattutto alla Via Rossa, così è chiamata questa via per arrivare alla conoscenza di se stessi principalmente e all'unione con il tutto, con l'universo, con tutto ciò che ci circonda, con la natura, con gli animali. E quindi, insomma, la conosco per questo, perché viene utilizzata appunto durante le cerimonie per pulire e preparare l'ambiente affinché si possa, affinché la cerimonia si svolga in un ambiente appunto pulito energeticamente. E oltre all'acqua florida vengono utilizzate molto anche le fumigazioni con lo stesso scopo, con salvia bianca o salvia piana, oppure con copal, oppure anche con tantissime erbe invece che più a noi conoscibili, come appunto la lavanda, il rosmarino, l'alloro, che sono tutte piante che hanno delle proprietà, ogni pianta ha la propria proprietà, e alcune sono più indicate appunto per fare questo tipo di pulizie. Ho iniziato a fare acque floride dopo aver partecipato a un piccolo workshop in cui appunto si insegnava la preparazione non di quella originale, ma comunque la preparazione di acque con piante o raccolte oppure comprate, o anche con elementi tipo chiodi di garofano o cannella. E mi è piaciuto molto questo incontro, non tanto per la parte, diciamo, pratica che hanno dimostrato, ma per tutto il significato più spirituale che questi composti possono portare. E la cosa bella, secondo me, cioè per me, è stata che prima di cominciare qualunque azione, in questo caso appunto la preparazione dell'acqua florida, di mettersi in una posizione di ascolto, di attenzione interiore, facendo una piccola meditazione di pochi minuti che ti puoi autoguidare, rivolta comunque alla madre, la madre che può essere tua madre personale, ma la madre in senso lato, quindi la madre divina, la natura, Pachamama, come la vuoi chiamare. E questa cosa qui mi è piaciuta moltissimo, perché porta veramente non soltanto a un fare con le mani e mescolare alchimicamente gli ingredienti che puoi avere scelto, ma ti porta veramente a fare tutto ciò con un grande rispetto, onorando ogni pianta, chiedendo ad ogni pianta di ringraziandola per ciò che avrebbe donato e lasciato nell'acqua, perché sia efficace per te stesso, per le persone che stanno intorno a te e per gli ambienti. E quindi questa attenzione, questa ponere proprio il focus non soltanto su realizzare, ma come, l'attitudine con cui farla, mi è piaciuta moltissimo. Allora, dicevo che appunto durante questo corso ci hanno dato delle indicazioni anche sul numero di piante da usare, e questo nella tradizione, che è la tradizione che me l'ha trasmesso, viene dal Messico. Comunque l'uso di queste acque, soprattutto in tutto il Sud America e anche Centro America, e il numero di piante dipende se sei una donna sposata, se hai figli, se hai nipoti. Ecco, ci sono tutte delle condizioni che però io personalmente ho lasciato un po' perdere, perché, come dicevo prima, secondo me, la cosa più importante è l'atteggiamento, l'intento, è l'intento che uno mette nel fare una cosa e che veramente dà valore a quello che fai. E quindi tutta questa parte un po' più, non lo so se dire scientifica, perché di scientifico non c'è niente, però appunto di numeri, di quante piante, così io l'ho un po' lasciata perdere. E mi sono più concentrata su quello che davvero io sentivo. Quando faccio un'acqua florida non è che io ci penso sempre, ci sono dei momenti in cui mi viene in mente che proprio desidero, probabilmente risponde anche a dei bisogni di quel momento e quindi nel momento in cui mi viene in mente io vado nella natura, cammino, e magari offrendo anche un canto perché mi piace cantare in mezzo al bosco e mi faccio ispirare, quindi mi faccio ispirare da quello che incontro nella mia passeggiata. Poi forse qualche pianta la conosco e conosco la proprietà che trasmette e quindi a volte mi è più chiaro che cosa raccogliere, però spesso è veramente istintivo, è intuitivo, e non c'ho una ricetta precisa, non so mai quante piante effettivamente utilizzerò. Comunque, diciamo minimo 3 e boh, ho fatto una con 9. Mi sono resa conto facendole che tendo ad usare i numeri dispari. Il numero dispari lavora di più a livello spirituale, mentre i numeri pari, cioè la quantità di piante che metti nella lozione, se sono pari, servono più per materializzare o per aiutare dei problemi fisici. Tendenzialmente, allora, come dicevo, non parto con un'idea chiara di quello che voglio fare, ma mi faccio ispirare dalla natura. Per esempio, ho un piccolo giardino dove ho qualche pianta aromatica. Un'acqua florida che ho realizzato è stata raccogliere tutte le piante le aromatiche del mio giardino, quindi c'era origano, c'era menta, melissa, lavanda, alloro, e poi santoreggia. Non mi ricordo più adesso che cioè, devo aver messo anche una margherita, sì, una margherita e poi elicrisio. Ecco, tutte un po' le piante del mio giardino e ho fatto l'acqua di flor del mio giardino. Un'altra cosa interessante che ho imparato sempre in questo corso, e anche questo mi piace molto, è dare un nome all'acqua che prepari. Quindi, dopo aver fatto la raccolta. Poi cambia se usi le piante fresche appena raccolte o se le lasci un po' seccare in modo da far eliminare un po' l'umidità. Comunque scegli un titolo, cioè non un titolo, gli dai un nome a all'acqua che farai, e quindi anche lì c'è l'intento, che cosa ti ha ispirato, cosa mi hanno ispirato queste piante, questo insieme di piante insieme, e sicuramente dipende anche da come mi sento io in quel momento, quindi quella che ho realizzato durante il corso, perché abbiamo appunto realizzato ognuno la propria acqua, l'ho chiamata sorriso, un'altra l'ho chiamata ritorno alla pace, insomma tutti i nomi un po' così, ritrovo la pace, non ritorno alla pace, però è bello anche il ritorno alla pace, ora che lo dico. Insomma, e quindi anche questa cosa qui, il nome che gli dai raccoglie un po' gli intenti e quello che provi e che senti sul momento. Poi viene anche ringraziato il vasetto, chiedendo che raccoglierà le erbe. Ti do la ricetta dell'ultima che ho preparato e l'ho fatta in un momento in cui di grande trasformazione interiore e in cui avevo bisogno di sentirmi, cioè di sentire una forza, la mia forza interiore per portare avanti appunto questo processo di cambiamento che era in atto. Quindi ho raccolto non le ho raccolte tutte lo stesso giorno, le ho raccolte in giorni diversi perché mi è venuta in mente di farlo il 1º gennaio, che ho fatto una passeggiata in un posto molto bello a 1000 metri di altezza e ho trovato del ginepro. E non so perché, quando ho visto il ginepro, ho detto: ah, ecco, lui sarà. Ho sentito che insomma in qualche maniera mi chiamano le piante, non è che io ho un'idea precisa, però quando ho incontrato questo ginepro, ho assaggiato una bacca, ho sentito subito che avrei voluto utilizzarla per fare un'acqua florida. E quindi poi quando sono tornata a casa, forse il giorno dopo o 2 giorni dopo, facendo una passeggiata, ho raccolto. Siccome il ginepro, senza saperlo, io l'ho raccolto, ma poi quando sono tornata a casa sono andata a vedere nel dizionario di simboli dei fiori a che cosa rappresentava, e comunque rappresenta e porta molta forza e stabilità, quindi non a caso io ho avuto voglia di raccoglierlo. Ho deciso di fare un'acqua, di raccogliere piante che sento che mi danno questa forza, e quindi ho raccolto foglie di quercia, che la quercia lo sappiamo, insomma, è un albero maestoso che ha proprio che rappresenta proprio la forza. E per esempio, una cosa bella che ho letto della quercia, che è l'ultimo albero che in autunno perde le foglie, e l'ultima foglia che cade dall'albero cade al momento che nasce la prima foglia. E quindi questa cosa della rigenerazione, no? Di questo movimento perpetuo che esiste. Mi piace moltissimo questa cosa della quercia, è sempre stata utilizzata in antichità. Poi sono andata avanti nella mia passeggiata e non poteva mancare il cipresso. Questa volta ho raccolto delle foglioline, ma anche una bacca, ho trovato una bacca già rotta, quindi ho raccolto lei. Anche il cipresso è un albero imponente che ha forti poteri spirituali di collegamento fra il cielo e la terra. Quindi ho sentito insomma, ho visto che stavo andando a scegliere sempre piante molto, molto importanti che trasmettono, che simboleggiano appunto forza, come anche l'alloro. Anche con l'alloro ho messo le bacche e le foglie, e anche il salice, che per me il salice È forte, ci si costruisce un sacco di cose, si può costruire, famosi, insomma, sono le ceste, cestini di salice, però c'ha anche la sua flessibilità. E quindi con la raccolta del salice ho aggiunto anche piante che invece, cioè non desideravo la forza intesa, non lo so, un po' mi viene in mente, non so, un guerriero, un'armatura, no. Una forza interiore che però avesse anche la sua morbidezza. Quindi ci ho aggiunto anche la melissa, che è una pianta proprio chiamata anche la pianta delle coccole, perché le sue proprietà, anche per esempio la tisana. Ecco, io uso delle piante che un po' conosco già. La sera farsi una bella tisana di melissa è la coccola, è una dolcezza, rappresenta un po' l'abbraccio e avere dei sonni tranquilli e dolci, ecco. E poi ci ho aggiunto il finocchio selvatico, non lo so bene perché, però era la prima pianta che ho trovato fresca i primi di gennaio e secondo me appunto ha rappresentato anche un po' il vigore del nuovo e poi per il suo colore, quindi l'ho scelto anche per questo. E alla fine ci ho aggiunto anche un po' di una foglia di olivo e un pezzetto di corteccia. Quindi io utilizzo non soltanto le foglie, ma anche le cortecce, che anche loro hanno le loro proprietà, magari non sono esattamente le stesse delle foglie o delle radici o dei fiori, però è una parte della pianta. Quindi per me le piante trasmettono anche una memoria del loro vissuto, di ciò che hanno assorbito dal cielo, dal sole e tutto il processo della fotosintesi. Ecco. Faccio un gran mescolone, mi sembra, ora che parlo mi rendo conto di questa cosa. E comunque, insomma, questa miscela che ho preparato, che ha avuto appunto con l'uso anche delle cortecce, è diventata molto scura. Poi l'ho tenuta più di 28 giorni perché poi sono partita e quindi l'ho filtrata dopo, ma comunque, insomma, secondo me anche lì è un po' a sentire. Non è che se uno vuole stare dietro alla numerologia, è forse importante seguire il numero di piante e il numero di giorni di infusione. Però io sono anche abbastanza, diciamo, come si dice, anarchica un po' su certe cose e voglio sempre più fidarmi di quello che sento, quindi seguo così. A volte è semplicemente anche una dimenticanza, ci sta benissimo, però siccome per me le cose sono perfette come sono, se l'ho tenuta di più vuol dire che andava bene così, ecco. E questo l'ho chiamato amorevole rinnovamento, ecco. E è una fragranza, sono sempre molto buone, hanno profumi proprio particolari che svaniscono quasi subito, cioè non è che se uno le spruzza nell'ambiente ti rimane, no, è proprio è molto leggero, però è proprio questa delicatezza, questa leggerezza che a me mi incantano, che sento, sono piccoli momenti, pochi secondi con cui ti relazioni con l'acqua, appunto annusandola sulle mani, perché un pochettino va fatto evaporare quando la usi per te e la metti sulle mani, le strusci per far evaporare un po' l'alcol, perché sennò al naso il primo profumo, insomma, il primo odore che arriva è quello. E invece se aspetti qualche secondo, l'alcol evapora e lascia però la traccia delle fragranze di tutto ciò che hai utilizzato. Ecco, sono questi momenti di pochi secondi che secondo me abbelliscono la mia giornata e che non è che li spruzzo tutti i giorni, quando mi viene, quando ci passa accanto, quando così, anche quello non c'è una regola. La prima volta che io ho usato le piante, anni fa, per cominciare a fare gli oleoliti, quindi cose molto semplici, e poi qualche unguento, poi comunque ho molte amiche che lavorano e che raccolgono le piante, quindi qualche pianta la conosco anche alimentare, soprattutto in questo periodo nei campi si trova di tutto. Ecco, quindi ho una conoscenza molto limitata. Però intorno a me ci sono persone che le usano anche per uso cosmetico e quindi ho fatto due piccoli corsi di erboristeria, insomma piccole cose, sempre molto soltanto per passione, non per farne diventare un lavoro o appunto o un reddito. E poi le ho utilizzate invece per tingere anche, quindi anche la parte tintoria delle piante, quindi ma tutto sempre molto, molto sperimentale, molto, molto per conoscenza, per volere appunto conoscere qualche cosa di più io, non per farne un lavoro. E quindi sì, mi ringrazio fortemente Madre Natura per tutto quello che ci offre, perché secondo me tutte le soluzioni ce le dà lei e insomma sappiamo benissimo che le piante, tutte le erbe hanno proprietà che da sempre hanno permesso guarigioni e aiutato tante persone, ecco. È molto semplice, è una cosa molto semplice, mi piace proprio per questa grande semplicità e per questa attenzione, questa attitudine di rispetto e non lo so, lo faccio così intuitivamente, spontaneamente, non voglio farne un commercio, non mi interessa assolutamente, però fa molto piacere poterne parlare. Poter condividere questa piccola pratica che è appunto una semplice pratica di pulizia e di attenzione verso se stesse, verso gli altri, verso tutto ciò che ci circonda. E allora torno in voce dopo questo lungo, lungo intervento e, che spero abbiate apprezzato. Prima di... ma non abbiamo fretta oggi, vi dico subito che non c'è fretta di far niente, tanto più o meno ci siamo con i contenuti di oggi. C'è qualche... due piccole cosine che vi vorrei passare in più, ma ecco, prima tanto c'è calma, appunto. Vi volevo dire, appunto, questa voce, in realtà l'avevate già sentita qui su Nervature, ma parecchio tempo fa. Precisamente nella quinta puntata, number 5, quindi parecchio tempo fa, 70 puntate fa precisamente, quindi ne è passata acqua sotto i ponti, come si dice. E, sì, quindi avevamo fatto una puntata anche con Zazzi e Palù, se non mi sbaglio, e appunto questa stessa voce che è di Paola Lucchesi, e perché l'avevamo già intervistata? Perché anche lei in realtà è decisamente una creativa, forse già si capiva dall'audio, ma oltre a questo è una restauratrice, maestra cartaia, e perciò, siccome la carta in realtà viene anche quella dalle piante, l'abbiamo fatta tutta una enorme intervista in cui ci spiegava tutti i suoi metodi che ha usato nel tempo per fare la carta, perché in realtà, a differenza di come ci si può aspettare, c'è vari tipi di carta, nel senso che sì, c'è quella che si usa ai fogli normali, però uno può fare anche carte molto più artistiche. E quindi se vi andate a rispulciare quella puntata, tra l'altro c'è qualche foto dei suoi lavori nella pagina del podcast, quindi potete anche risentire, insomma, vedere un po' di cosa si tratta. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ประพฤติผิดในกาลขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงบางขึ้นแต่เย็นไปลงขอนแยงขอบฟ้าไม่แดงก็ไม่ยอมลงถึงใครจะห้ามมันก็ไม่ฟังมันขึ้นไม่ยังถึงใครไล่ส่งรู้หรือเปล่าว่าอะไรกันรู้หรือเปล่าว่าอะไรกันนั่นคือพระจันทร์น้ำมันขึ้นมันลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลง E allora, però, per tenervi sempre sull'attenti, mi raccomando, non vi distraete. Se non l'avete già fatto, aprite il pad direttawombat.vado.li, così che potete scrivere, io lo vedo in diretta e vi posso rispondere. Quindi andate a ruota libera, domande, commenti e altro, quello che volete. ขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงไอ้อย่างที่สามเลี้ยวสามรายกาดมันขึ้นพวดลาดขึ้นแล้วไม่ลงทำไมจึงขึ้นขึ้นจริงไม่รู้ได้แต่ยืนดูเห็นขึ้นจงจงรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรก็สินค้าเมืองไทยละขึ้นไม่ยอม E allora, dunque, per così continuare a stare un po' insieme, come vi dicevo, oggi è puntata molto molto tranquilla, semmai questo l'argomento iniziato puntata scorsa riguardo agli utilizzi delle piante con metodi casalinghi continuerà prossimamente, per ora lo sospendiamo qua. Invece volevo farvi una piccola lettura di un articolo che ho trovato dal sito di Picaia, che è un blog giornalistico scientifico, quindi divulgazione scientifica a tutti gli effetti, che tra l'altro consiglio vivamente, un'ottima ottima fonte per sia notizie, sia curiosità, sia eventi anche riguardanti appunto sempre divulgazione scientifica o cose simili. E, questo articolo però nello specifico è così più culturale, botanicamente culturale per così dire, e parla della vaniglia, così non c'entra un cazzo con niente, ma io vi leggerò questo articolo. As in the present tense. La spezia divina e il giovane creolo. Storia della vaniglia. Chi non conosce la vaniglia, il suo gusto o il suo profumo? Ma se vi chiedessero qual è la sua zona di origine e da quale tipo di pianta si ricava, sapreste rispondere? Pianta della vaniglia è un'orchidea e si chiama Vanilla planifolia. Cresce spontaneamente nelle foreste pluviali del Messico, dell'America centrale e in parte dell'America meridionale. La pianta è rampicante e si sviluppa come una liana, flessibile e poco ramificata, che si arrampica su supporti naturali. Il fiore è morfologicamente molto complesso e la pianta non può auto-impollinarsi. Nel suo ambiente naturale dipende da impollinatori specifici. In passato si riteneva che l'impollinazione fosse opera di un'ape senza pungiglione del genere Melipona, ma non è ancora stato identificato con certezza un impollinatore specifico. Studi sulle altre specie di vanilla, strettamente imparentate, suggeriscono che si tratti comunque di api che appartengono alla tribù degli euglossini. Dopo la fecondazione, l'ovario si trasforma in una capsula pendente, simile a un baccello, lungo tra i 12 e i 25 cm, di colore verde e contenente migliaia di minuscoli piccoli semi. Tuttavia, i frutti freschi non possiedono ancora l'aroma caratteristico della spezia. Per ottenere quell'aroma sono necessarie complesse lavorazioni post-raccolta. La scoperta della vaniglia da parte degli europei. I Totonaci, un popolo indigeno in conflitto con gli Aztechi, furono tra i primi a coltivare e lavorare la vaniglia. La chiamavano Tlilxochitl, non so come si pronuncia assolutamente, vabbè, che in lingua Nahuatl significa baccello nero, in riferimento al colore assunto dal frutto dopo l'essiccazione. Gli Aztechi utilizzavano la spezia combinandola con il cacao per preparare una bevanda sacra, la cioccolata. Gli europei scoprirono la vaniglia solo nel 1520, quando Hernán Cortés sbarcò in Messico e gli fu offerta una bevanda a base di cioccolato e vaniglia dall'imperatore Montezuma. L'impero Azteco, che si estendeva dal Golfo del Messico all'Oceano Pacifico e dal Messico centrale al Guatemala, terminò nel 1521, quando i conquistadores spagnoli e i loro alleati sconfissero l'ultimo sovrano Azteco, Cuauhtémoc, e catturarono la loro capitale, la bellissima Tenochtitlan. Quello che fecero i conquistadores al popolo azteco credo che possa essere considerato uno dei peggiori e più efferati genocidi che la storia possa ricordare. Tra uccisioni ed epidemie di vaiolo introdotte dagli europei, la popolazione messicana si ridusse da 25 milioni a appena 1 milione. Gli spagnoli completarono la conquista imponendo la loro lingua, la loro religione e cultura alla popolazione nativa. La coltivazione della vaniglia fuori dal Messico. Affascinati dal suo profumo, gli spagnoli portarono in patria piccole piante di vaniglia e tale è da coltivare in serra. Prima ancora di iniziare a coltivarla, iniziarono però subito ad usare la spezia, in cucina e per la preparazione dei profumi, e lo stesso fecero anche i francesi. La spezia veniva importata dal Messico e a caro prezzo. Il Messico conservò a lungo il monopolio della vaniglia e i Totonaci rimasero i principali produttori fino alla metà del XIX secolo. Come mai accadeva tutto questo, visto che in Europa le piante avevano attecchito e crescevano, sparse in diversi orti botanici? Beh, perché tutti i tentativi di far riprodurre questa orchidea al di fuori del suo habitat naturale fallivano. I francesi all'inizio del XIX secolo introdussero la pianta sull'isola di Bourbon, oggi conosciuta come la Réunion, situata a est del Madagascar. Ma nonostante il clima tropicale, i molti tentativi non andarono a buon fine. Mancavano gli impollinatori nativi, necessari per la fecondazione del fiore di vaniglia e la formazione del frutto. I botanici pensavano che anche altre specie di api potessero svolgere questo compito, ma si trattava probabilmente di un caso di coevoluzione stretto. Some people are full of bad intentions. Don't you know we all got to be. Too many of us hating and lying, and you know too many brothers are dying. We're all the same under the skin, same needs, same thirst within. My blood, you're my blood, blood brother. in the city of the angels now. People robbing, stealing, drive-by shooting. Life ain't worth much these days. Tolerance is what I'm asking for. We're on common ground. Just open up a few doors. If you get summer education, realization of the size of the overpopulation, then you might just see your grain of sand in the sea. You get some perspective of the way it could be. Why can't we in this nation learn to live in harmony? You're my blood, you're my blood, you're my blood. Io mi sono fatta prendere da questa canzone, non riuscivo a fermarla. State ascoltando qui, quindi in sottofondo, l'album Jazz in the Present Tense dei Soul Sonic. Vai, spettacolari direi. Andiamo avanti allora con la storia di questa strana pianta, questa orchidea equatoriale, chiaramente, che gli europei, una volta portata però appunto in Europa, non riuscivano in nessun modo a riprodurla, se non per talea, ma non riuscivano a fargli fare i frutti, quindi i tanto adulati baccelli che poi appunto con metodi specifici post raccolta riescono a dare questo gran bel profumo. Quindi la scoperta, andiamo a leggere adesso, di Edmund Albius. Uno dei primi a compiere l'impresa di impollinare artificialmente la vaniglia fu un giovane schiavo creolo di 12 anni, Edmund Albius. E sulla sua storia vi raccomando il libro Il frutto più raro, la scoperta della vaniglia, scritto da Gael Belém Edmond. Edmund Albius è nato il 9 agosto 1829 a Sainte-Suzanne. Era orfano dalla nascita, perché la madre Mélise era morta di parto e il padre Pamphile era fuggito, abbandonandolo. Venne cresciuto da un grande proprietario terriero francese, che era anche un botanico, Ferréol Bellier Beaumont. Egli era proprietario della piantagione Bellevue a Bourbon. Ferréol era un vedovo disperato e inconsolabile, a cui la presenza del piccolo creolo cambiò letteralmente la vita. Tutti i giorni Ferréol portava a spasso per il suo orto botanico meraviglioso il piccolo Edmund e lo istruiva, indicandogli le piante bellissime che coltivava. Gli aveva parlato di un grande botanico, Carl von Linné, ovvero Linneo, che aveva assegnato nomi scientifici a ben 3.000 piante. Chiaro che dopo queste premesse, Edmund, a 5 anni, conosceva già sia il nome popolare che quello scientifico di ogni pianta nell'orto. Allora Ferréol gli permise di tenere, con il suo aiuto, un piccolo orto, dove si coltivavano le erbe per la cucina. Questa parte della vita di Edmund mi ha fatto pensare immediatamente al piccolo Linneo, che aveva fatto la stessa esperienza con suo padre. E quindi passarono gli anni e anche Edmund si concentrò sull'enigma dell'impollinazione della vaniglia. Studiandola attentamente, si accorse di un particolare che sarà quello vincente. Sul fiore di vaniglia vi è un ostacolo naturale, una membrana, che è detta rostello, che separa l'organo maschile da quello femminile. È un delicato imene di protezione che impedisce qualunque tipo di fecondazione. Con una scheggia di bambù, Edmund sollevò l'opercolo facendo uscire gli stami. Mise poi lo stame, pieno di polline, a contatto con lo stigma. Il fiore di vaniglia era così fecondato. Edmund credette di esserne nel giusto e continuò questa manovra sui fiori vicini. Edmund non lo sapeva, ma il rostello serve per impedire che avvenga l'autoimpollinazione. 5 settimane dopo, mentre attraversava il vaniglieto di Ferréol, Edmund trovò un baccello rigido color verde mela, lungo 2 dita, che sembrava un fagiolino. Edmund sapeva che era il primo baccello di vaniglia di Bourbon, nato fuori dal Messico. Era il 1841, erano passati più di 3 secoli dalla scoperta della pianta. Il giovane Creolo e il suo mentore, Ferréol, Bellier, Beaumont, iniziarono un tour dell'isola di Réunion, visitando le altre coltivazioni, dove Edmund insegnava così la tecnica di impollinazione ai vari coltivatori. Edmund però capì subito di non essere arrivato ad ottenere la spezia. Quando mangiò un baccello, si accorse che aveva il sapore di un fagiolino e non il meraviglioso aroma della vaniglia. Una decina d'anni dopo, Ernest de Lupy, un coltivatore di Saint-André, iniziò a fare ricerche per capire quali metodi usavano i totonaci per ottenere le spezie. Ottenne informazioni, poi iniziò a sperimentare e dopo molti tentativi ottenne i baccelli di vaniglia. Vi risparmio però la lunga descrizione del processo di essiccazione. Nel 1848 la Réunion esportava qualche decina di chili di vaniglia, che diventarono però 200 chili all'inizio degli anni 50 dell'Ottocento e diventarono poi 3 tonnellate nel 1858 e poi 200 tonnellate nel 1898. La coltivazione venne estesa poi anche al Madagascar. Ma torniamo al nostro Edmond. Allora, il 22 novembre 1848 venne abolita la schiavitù nelle colonie francesi. Ferréol quindi lo affrancò e lui divenne un uomo libero. Gli venne assegnato anche un cognome che gli schiavi invece non potevano avere. Si chiamò Albius, dal termine latino albus, che significa bianco, per ricordare il colore dell'orchidea, che ebbe un ruolo così importante nella sua vita. Lasciò la tenuta per trasferirsi a Saint-Denis, dove, pur lavorando molto, visse di stenti. Poi, finalmente, a 22 anni, fu assunto come cuoco al servizio di Joseph Marchand, capitano aiutante maggiore, abitante a Saint-Denis. Edmond aveva imparato a cucinare dalla cuoca di Bélier Beaumont, Colombine. Edmond ritrovò il gusto per la vita attraverso il sapore dei pasti che preparava. Cucinava tonno al curry, cive d'oca, quaglie farcite di lici, piatti molto diversi dalla sbobba quotidiana a cui invece era abituato. Come ringraziamento, il padrone gli tolse il cibo e in seguito lo accusò di aver rubato alimenti e alcune collanine di scarso valore. Per questi bianchi francesi lui era ancora uno schiavo nero su cui infierire liberamente. Edmond venne arrestato il 7 settembre 1851 e condannato a 5 anni di reclusione e di catena per un furto neanche dimostrato. Venne inoltre avviato ai lavori forzati. Ferréol e tutti quelli che conoscevano bene Edmond chiesero una riduzione della pena e una ricompensa pubblica, dicendo che il ragazzo meritava più di chiunque altro la riconoscenza pubblica e la clemenza del governo. Il 26 aprile 1855 Edmond uscì di prigione. Ad attenderlo trovò Ferréol, il suo padre adottivo. Fu ancora lui a regalargli una casetta e un terreno coltivato a orchidee, mais e patate dolci, a cui Edmond aggiunse un orto. Lui era il ragazzo che tutti chiamavano il Linneo africano. Edmond rimase solo per molti anni, poi invece incontrò una ragazza, la cui famiglia proveniva dall'India, Marie Pauline Bassana. Lei aveva 18 anni e lui 22 in più di lei. I due si innamorarono e si sposarono nel 1871. Furono molto felici. Purtroppo il 29 gennaio del 76, meno di 5 anni dopo il matrimonio, Marie Pauline morirà a causa delle febbri molto frequenti nell'isola. I tifoni distrussero più volte le coltivazioni, ma Edmond riuscì sempre a riprendersi fino, però, alla sua morte per febbre virale nel 1880, all'età di 51 anni. Quindi abbiamo letto insieme questo curioso e molto molto interessante articolo della storia della pianta della vaniglia, così, vabbè, non c'entrava niente, ma che c'entra? Vabbè, era carino e quindi ve l'ho letto. Allora, ripeto la fonte, che è il blog Picaia con la K, picaia.eu, che appunto ve lo consiglio perché fa divulgazione scientifica molto molto buona. Che dire, allora, i contenuti per quest'oggi sono più o meno terminati e c'è un ultimo, in realtà, appunto, contenuto, che è una pianta storia, e beh, di chi sarà? Pianta storia della voce che abbiamo sentito prima, ovvero quella di Paola, e ve la faccio sentire e poi direi ci salutiamo con un ultimo pezzo, ma sì, ci risentiremo poi settimana prossima comunque. Esperti interessati a dialogare con le piante. Pianta storia. E registrarne la sensibilità. Pianta storia. Ecco, più che una storia su un tipo di relazioni che posso aver avuto con gli alberi, che ho abbracciato fin da quando ero bambina e quando avevo 17-20 anni, mi prendevano anche per grulla gli amici, e mi è venuta in mente una cosa, quindi più un aneddoto, più un ricordo, con cui io forse la prima volta è stato il mio vero contatto con una pianta al di fuori dell'uso culinario, che magari potevo aver già sperimentato in casa con la mia mamma, cucinando con rosmarino e la sabbia o cose, ecco, così, poco, senza mai avergli dato un altro significato. E l'aneddoto è questo: avevo 25 anni, era per il mio compleanno, quindi era marzo, con Daniele, che era, ora forse questa lì non interessa, però diciamo che con un amico, quello che era il mio compagno all'epoca, si andò a Sri Lanka e si fece una traversata in macchina eravamo nel nord, dal nord, dall'estremo nord al sud, da Kent a Ikaduwa, quindi. E lui aveva tenuto tutto il giorno, tutte queste 9 ore di macchina, il braccio fuori dal finestrino. E la sera, quando si arrivò poi a Ikaduwa, aveva questo ovale grosso quanto, fai conto, un uovo, anche di più, completamente, cioè la pelle gli era andata via già a diversi strati, era ustionato, un ustione impressionante. Era una persona che aveva la pelle molto bianca, infatti. E quando si arrivò lì, lui stava molto male, io non sapevo che cosa fare veramente. A un certo punto mi chiama un pescatore, che eravamo su Kadu, è un paese sulla spiaggia, sull'oceano Indiano. Un pescatore, senza parlare inglese, senza niente, mi chiama, mi fa capire di seguirlo e va in questo posto dove c'è questa pianta gigante. Lui ne taglia una punta, me la apre e mi fa capire che devo metterglielo sulla ferita e applicarci una fascia per 4 giorni, 3 o 4 giorni, non muoverla, lasciarla così. E basta. Quindi io ho eseguito quello che mi disse, era un'aloe gigantesca e quando si sfasciò il braccio, non c'era più niente, cioè era rimarginato tutto perfettamente, quasi non si vedeva neanche più il segno. Quindi ecco, per me è stato forse il primo momento in cui io ho vissuto, proprio sperimentato gli incredibili benefici che ogni pianta ha con sé, incredibili doni che ci danno continuamente. Ecco, forse è stato lì, nel lontano 1997. Sì, l'aloe che ha curato un'ustione molto, molto avanzata, ecco, davvero. E quindi ho voluto onorare questa pianta che poi ho anche in giardino e ho deciso di raccontare questo. E penso che sia comunque da lì che è cominciato poi, ho cominciato così, mi sono cominciata ad arrivare voci sull'omeopatia e quindi anche lì si parla di piante, ecco. E piano piano sono entrata in questo mondo più sottile, fiorito e bello. Ed ecco, questa era la pianta storia, curiosissima, davvero carina, di Paola. Io ringrazio tantissimo per la sua voce, grazie davvero che hai voluto contribuire a questa puntata. E ringrazio però di nuovo anche Rosangela e Simona della scorsa volta. Io direi allora che vi metto un ultimo brano per salutarci. E quindi ci risentiamo sempre con Nervature lunedì prossimo, sempre alle 19. Io vi auguro una buonissima serata, che sia spensierata o che sia casinosa o che sia sonnecchiante, non importa. L'importante è che Radio Wombat rimanga accesa lì accanto a voi. Buona serata a tutte e tutti.